Ognuno di noi, quando giudica, per forza di cose non può prescindere dai presupposti che si è costruito nel corso della vita, i quali formano il nostro modo di valutare e di condannare. Nel mio paese certe parole hanno un significato innocente, mentre in Piemonte sono considerate una offesa. In certe tribù dell'Africa i bambini appartengono alla comunità più che ai genitori, mentre nella cultura occidentale un figlio è di proprietà esclusiva di coloro che lo hanno generato o che lo hanno generato o che lo allevano. Proprio per questa diversità, a volte trovo non appropriata la pubblicità a favore di certi bambini poveri, tendente a suscitare commozione nel cuore di chi dona, il quale, in quelli fotografati, vede il proprio bambino. Mentre non sempre i genitori naturali di bambini che vediamo in strada, soli e deperiti, provano gli stessi sentimenti di tenerezza stimolati in una mente occidentale. Inoltre, ho letto in alcune interviste che, in certi paesi dove vi è la guerra, alcuni mettono davanti a sé i bambini e le donne come scudo, per poi lamentarsi della loro uccisione. È evidente che l'opinione pubblica occidentale, non ben informata, valutando il dolore altrui sul metro dei propri sentimenti, non può che inorridire di fronte a questi massacri. Ma la morte di un figlio, in certe culture, non è così traumatica come in Occidente. E su questo la pubblicità gioca le proprie carte, così come ne approfitta anche chi vuole portare acqua al suo mulino, sia nel campo politico sia in quello religioso. Più passa il tempo, più mi rendo conto che in questo gioco della vita vincono coloro che sanno giocare bene le loro carte. O, come dice la Bibbia, ho pure visto sotto il sole che la corsa non è vinta da chi è veloce, né la battaglia dai forti, né il pane va ai saggi, né le ricchezze agli uomini intelligenti, né il favore a quelli abili, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Ecclesiaste 9.1.1. Chi ha la perspicacia di comprendere il tempo opportuno e chi è in grado di rendere favorevoli le circostanze può ottenere quello che vuole e raggiungere gli scopi che si prefissa, sia buoni sia cattivi. Non a caso, sono le persone dotate di un grande acume a impossessarsi dell'opinione pubblica, specialmente nel male, come i dittatori. Una volta capiti i presupposti delle persone, una volta individuata la cultura di fondo, uno può far girare la trottola come vuole. Un uomo del genere non impone il proprio metro, ma quando convince gli altri che il loro metro è uguale al suo, a campo vinto, ha la partita vincente in mano. Perché questi ragionamenti? Per dimostrare che anch'io sono soggetto come tutti alla regola di giudicare gli altri con il mio metro o giudicare il prossimo basandomi su come sono io. Come posso giudicare uno sportivo che si allena in base a quello che sono? Se io corro anche solo un poco, mi rendo conto quanta fatica si provi. Se invece sono convinto che un atleta sia allenato e perciò si affatica molto meno, non potrò mai capire che per lui 10 chilometri sono come per me poche centinaia di metri. Giudico l'atleta in relazione alle mie capacità. Altro esempio. Quando il clima è torrido, se non mi conosce bene, chi lo soffre mi esprimerà il suo dolore per il caldo, senza sapere invece quanto io stia bene con le temperature elevate. Queste persone mi giudicano secondo la loro esperienza. Mia mamma, vicino ai 90 anni, mi proibiva di portare una confezione di acqua minerale perché per lei era troppo pesante. Giudicava le mie forze fisiche in base alle sue capacità. Siamo tutti soggetti alla regola di giudicare il prossimo per quello che siamo. Proprio per questo, nella mia vita ho spesso commesso un errore che sovente mi è costato molto, non tanto a livello di salute quanto di rapporti con il prossimo. Non mi ritengo un malizioso, nel senso che non sospetto il male negli altri, per cui il mio rapporto con il prossimo è stato sempre schietto, leale, franco, aperto o, come si dice, solare, e per questo ho sempre pensato che gli altri fossero come me. Non potevo fare diversamente. Perciò, giudicare il prossimo come sono io non è né una virtù né un difetto. Si tratta solo di un normale modo di rapportarsi di una persona con un'altra secondo la propria personalità. Non essere maliziosi è una buona cosa, un atteggiamento che dovrebbe abitare in tutti. Ma se poi a questa caratteristica non si aggiunge l'accortezza, allora spesso ci si trova nei guai. Le persone maliziose che possiedono anche l'abilità di gestire le situazioni a loro favore fanno presto a preparare dei tranelli a chi non è avveduto e malizioso. Si cade con una facilità estrema nella loro rete. Questi purtroppo sono i giochi della vita. C. È chi prepara dei tranelli molto abilmente. C. È chi vi cade altresì facilmente. Sembra che la vita sia un continuo slalom, dove ogni parola e ogni piede deve essere posato con grande attenzione, schivando del continuo pericoli e minacce. Oppure, la vita sembra un campo minato nel quale ogni passo è accompagnato da un senso di incertezza. Chissà cosa mi capiterà. Che si commettano degli errori non è una novità. Anzi, è normale e umano. Perciò quello che non comprendo è perché gli errori debbano costituire ragioni per litigare o creare fossati enormi, se non steccati insuperabili. Il cristianesimo, che è la religione dell'amore meno, o almeno dovrebbe esserlo, è la prima religione, nel senso di quel complesso di comportamenti legati alla divinità, che insegna a perdonare il prossimo qualora sbagli nei tuoi confronti. Nessuno ha mai parlato di perdono tanto quanto Gesù. E perfino nella preghiera modello del Padre Nostro, preghiera recitata da milioni di persone, Gesù ordina e non incoraggia di pregare il Padre, di perdonarci come noi perdoniamo il prossimo. E una volta perdonato il prossimo, gli steccati e i fossati non dovrebbero esserci più. Altrimenti a cosa serve il perdono? Il cristianesimo sarebbe come qualsiasi altra religione. Perché? Allora, dopo il presunto perdono, si continua a restare separati, non si abbatte quella barriera creata dall'offesa oramai perdonata. Per quanto posso aver capito, il perdono è un lasciare libero il mio debitore e non ritenere più un creditore chi mi ha offeso. Essendo sempre stata questa la mia valutazione sul perdono, ho sempre pensato che anche per gli altri fosse così, ma anche questo mi è sempre costato caro. Purtroppo, dopo 10, 20, 30 anni, alcune persone ricordano situazioni e sentimenti offesi come se non ci fosse mai stata una riconciliazione. Come posso comportarmi con chi, sebbene non io lo sospetti maliziosamente, ha dei segreti rancori nei miei confronti? Difficile dirlo, anche perché variano le persone e le situazioni. Se cercassi abilmente un comportamento tale da evitare ogni screzio o conflitto, non mi troverei a mio agio, perché ho compreso che nella vita la verità è sempre in conflitto con la menzogna. Se si è dalla parte della verità, se la si difende per quella che è, chi dice menzogne mi considererà un nemico o un avversario, per ben che vadano le cose. Ritenere che una persona si comporti come me nell'ambito del perdono mi sembra molto umano. Ma quando scopro che per molti i torti ricevuti non vengono più dimenticati e continuano a creare differenze nei rapporti, allora mi devo adeguare alla situazione e comportarmi, contro la mia volontà, diversamente. Devo imparare a ragionare con la testa di un altro e non con la mia. Mi trovo catapultato in un mondo non mio, ma al quale devo adeguarmi per non creare ulteriori problemi a quelli già esistenti. La conclusione di questi ragionamenti si riduce alla fine all'ubbidienza ad un comandamento di Dio, ordinante di tenere conto anche della coscienza altrui, 1 Corinzi 8.12, 10.2-9.32. Il che vuol dire non solo di considerare la morale del prossimo, ma anche tenere presente che, essendo la morale del prossimo diversa dalla mia, non posso giudicarlo sulla base del mio carattere. E questo, obiettivamente parlando, non è poco né facile. Come posso ragionare con la testa di un altro? Soprattutto, come posso avere la morale del prossimo se questa mi è completamente estranea? Come posso pensare che il mio prossimo è malizioso se io non sono tendente alla malizia? Com'è possibile che io pensi di non essere perdonato da chi ho offeso anche involontariamente se in me non abita nessun risentimento né rancore? Ad un dato momento gli interrogativi devono finire. E poiché non potrò mai comprendere ogni cosa, mi sono arreso accettando la sentenza di Dio. Quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, allora ho visto tutta l'opera di Dio, che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole, perché anche se l'uomo si affatica a cercare, non riesce a scoprirlo. E anche se il saggio dice di sapere, non è in grado di scoprirlo. Ecclesiaste 8.1.6.17. Dunque vi sono cose che non si potranno mai capire, situazioni che rimarranno sempre nel buio perché ce ne è preclusa la possibilità, ma anche perché è impossibile capire il prossimo con una morale soggettiva e limitata. Questa verità mi porta a cambiare obiettivo. Piuttosto di cercare di capire sempre il prossimo dopo un breve tentativo in quella direzione, mi preoccuperò di esaminare la giustezza del mio operato. E, molto più semplice. Del resto l'Apostolo Paolo, di fronte ai continui giudizi altrui, rispose: «Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio». 1 Corinzi 4.3. Saggia conclusione. Se tutti tenessimo costantemente presente di dover rendere conto a Dio, avremmo meno difficoltà nelle relazioni con il prossimo. E, alla fine della nostra vita, riceveremmo la nostra lode da Dio. Non vale la pena di commettere l'errore di giudicare il prossimo per come sono io, del resto non posso fare altro. Giugno 2010. Ellero,